33 minuti primi, e dal sabato romano del prossimo 28 ci ritorneremo ovviamente più tardi nel corso della mattinata. Ritorniamo ancora ai temi che abbiamo trattato durante la rassegna stampa di quest'oggi. In particolare abbiamo dato spazio a una sentenza del Tribunale di Messina con la quale si è concesso a una persona transessuale di cambiare sesso sui documenti senza intervento chirurgico, una questione a cui il Corriere della Sera ha dedicato amplissimo spazio, a dire il vero, e spazio minore ma presenza si trova anche su altre testate, e sul Corriere c'era anche la citazione di Porpora Marcasciano, la leader del MIT, come dice il Corriere, che ovviamente abbiamo subito chiamato, visto la soddisfazione di leggerla. Abbiamo Porpora dall'altra parte del telefono. Buongiorno, intanto come stai? Diciamo bene, mi riposo, ma ho l'influenza, quindi la mia voce non sarà, come dire, alla Maria Callas, ecco. Vabbè, insomma, cercheremo di alla Tebaldi, dai, ci chiamiamo alla Tebaldi. Va bene, senti, ciao. Porpora, ciao. Noi insomma abbiamo dato un po' lettura di questo articolo e abbiamo tentato, nel limite delle nostre possibilità, di anche raccontare un po' la questione. Ecco, è davvero così importante questa sentenza che è arrivata da Messina? Giustifica questo grande spazio che oggi il Corriere le dedica? Ma sicuramente l'importanza ce l'ha, ma non solo, ripeto, per le persone trans, io questo lo dico da molto, proprio per un paese che si dice o si possa dire libero. È importante la sentenza di Messina e va ad aggiungersi ad altre sentenze. C'è stata Roma, che è stata la prima nel 2011, se non sbaglio, e Rovereto, quelle che riconoscono a una persona trans di poter cambiare il sesso, cambiare il nome sui documenti senza arrivare all'intervento chirurgico. Perché? Perché non tutte le persone riescono, possono o vogliono arrivare a quell'intervento per motivi diversi, perché è un intervento, come dire, molto invasivo, è un intervento irreversibile, insomma non entro in merito a quello. Però una persona che ha tutte le sembianze, le caratteristiche di un sesso e quindi di un genere, ma sui documenti ha riportato il nome di nascita e quindi il contrario, mi sembra giusto, come dire, mettere in grado la persona di poter vivere la propria vita. Detta così, potrebbe sembrare, e per alcuni lo è, un capriccio, ma non lo è assolutamente. Vi faccio degli esempi. Una persona, quindi, che all'apparenza è un uomo o una donna, viceversa, perché esistono entrambi i percorsi, certo, trans, e per un motivo o per l'altro finisce in ospedale. Ecco, quei documenti con un nome che contraddicono la sembianza, dove la fanno ricoverare questa persona? In un reparto che, come dire, che non va bene, ma non solo per la persona stessa, quanto per l'imbarazzo che crea alle altre persone. Come dire, sono... Le cose non sono mai rivolte alla singola persona, ma riguardano proprio il contesto e il mondo che ci sta intorno. Una persona che deve accedere al lavoro, vuole fare una domanda di lavoro, ha un curriculum ottimo, favoloso, poi presenta il documento e lì, come dire, si chiudono baracche e burattini e non si va avanti. Potrei citare una persona trans che deve o vuole andare a votare e non ci va per un semplice motivo, perché i seggi elettorali, le urne sono divise tra maschi e femmine, cioè uomini e donne, e lì, come dire, molte persone sono imbarazzate, non, certo, non vogliono che questo venga fuori. Ripeto, di esempi ne potrei citare mille, come quello classico diventato famoso sui nostri media, perché i media poi risaltano spesso anche quelli, quello della Vladimir Lussuria quando era parlamentare, che entrò nel bar delle donne, no? Apriticielo, come dire, la berlusconiana, che manco mi ricordo il nome, sa, onorevole, lei deve andare nel bagno degli uomini. Cioè, quello sì, poteva essere presa come una battuta, una cosa, però rispecchiava, rimandava un problema che è reale. E quindi, siccome molti paesi si sono adeguati e hanno fatto leggi a proposito, e l'Europa sta spingendo l'Italia su questo ad adeguarsi, perché quello riguarda i diritti e la dignità delle persone trans, l'Italia questo ancora non lo ha fatto. Siccome c'è una lungaggine politica allucinante, cioè il dibattito, è inutile stare qui a parlare, lo sappiamo, è inutile ridircelo, che il dibattito politico su questioni, come dire, eticamente sensibili, ma qui sembrano che lo siano molte le eticamente sensibili, si blocca, non va avanti, non procede, e le persone si sono stufate di aspettare i tempi della politica, per cui noi come MIT abbiamo lanciato questa campagna che si chiama Un altro genere possibile, che permette proprio, che vuole permettere alle persone di cambiare il nome sui documenti senza arrivare all'intervento o prima che questo, come dire, avvenga, proprio per poter vivere tranquillamente la propria vita. Quindi sostanzialmente, riassumendo, i tribunali, i giudici, gli avvocati stanno facendo, hanno cominciato a fare quello che la politica avrebbe dovuto fare già da anni, come dire, esprimendo, facendo una legge. Senti, siccome questo non l'ha fatto, come dire, stiamo facendo legislatura attraverso, come dire, le sentenze dei tribunali. Quindi benvenga Messina, benvenga Roma, benvenga Rovereto, che sono i posti che si sono espressi, e ce ne saranno molti altri, sperando che non ci sia il solito intoppo legato ai fondamentalismi e alle destre tutte italiane, come dire, le isissiane destre italiane, ecco, che non scassano le scatole a questo processo, ecco. Senti, tu ricordavi appunto che ci sarebbe anche un disegno di legge che è sepolto da qualche parte, però quello che ti volevo chiedere è, diciamo, si può in qualche modo aggirare questa non volontà di decidere da parte della politica attraverso queste sentenze, oppure comunque bisognerà arrivare a un punto in cui bisognerà scrivere qualcosa nero su bianco? La sentenza credo che, come dire, parli ed esprima, si esprima da sola, venga. E aggirare, qui non si tratta di aggirare, quanto piuttosto si tratta di spingere la politica a esprimersi e a tirar fuori una legge che come dire, riconosca questo, ma ripeto, non lo fa e non succede, perché ogni volta ci viene detto che ci sono altre priorità, eccetera eccetera. Io penso che questo tipo di sentenze aiutano le persone a, come dire, a vivere, ecco, tutto lì, se si tratta semplicemente di questo, di vivere tranquillamente. Noi abbiamo centinaia, e non ho problemi a esprimere i numeri, se non migliaia di persone che non trovano lavoro già per una crisi in atto, e non lo trovano per un doppio motivo, doppiamente discriminate, perché hanno un nome non corrispondente alla propria identità, alle proprie sembianze, e questo, come dire, non è possibile, non è giustificabile da sotto nessun punto di vista, ecco. Quindi senti, in Europa più o meno le questioni legali sono state, giuridiche, sono state risolte, oppure ci sono paesi che stanno messi come noi, altro per consolarci? Ma sicuramente ci sono paesi messi come noi, però sono anche quei paesi che hanno cominciato un processo diciamo, democratico più tardi, e quindi magari sono giustificabili sotto un certo punto di vista. L'Italia non è giustificabile perché non è, come dire, l'avrebbe dovuto fare. Paradossalmente l'Italia è stata la prima, insieme alla Germania, a fare una legge che permetteva il cambio di sesso nel lontano 82, quindi in piena fase democristiana. Dopo si è bloccato tutto, e però questo, come dire, va detto, l'Italia nel lontano 82, all'epoca proprio, altre dimensioni, aveva l'unica insieme alla Germania ad avere una legge che riconosceva il cambio di sesso, ma dopo andava adeguato quella legge, nel senso che quello era un riconoscimento rispetto a un gruppo, a una categoria di persone che esisteva da sempre e da sempre non era stata riconosciuta, quindi era un primo riconoscimento e una prima concessione. Ma oggi, a fronte, dopo 33 anni, anzi 34, di, come dire, con una realtà cambiata, con una popolazione trans, come dire, cresciuta a dismisura, si parla oggi di 50.000 transessuali in Italia, cioè come fai a non tenere in considerazione problemi che non sono problemi di forma, così, di facciata, ma sono problemi sostanziali proprio, che vanno a intaccare la vita e il diritto delle persone. Beh, quindi allora, se il primo tentativo di inquadramento legislativo è stato fatto in piena epoca democristiana, dobbiamo sperare che adesso che stiamo, pare, tornando in una nuova epoca democristiana, magari ci possiamo aspettare qualcos'altro. A me sembra che, come dire, sì, stiamo rientrando in epoca democristiana, ma con equilibri completamente diversi, cioè gli equilibri dell'82 non mi sembra siano quelli di oggi. No, decisamente no. Lì c'era, come dire, paradossalmente c'era la guerra fredda, come dire, chiamiamola così, un po' per sintetizzare e banalizzare, quindi c'erano dei blocchi, ma oggi mi sembra che di blocchi ce ne sono 10.000, dove però emergono le vecchie logiche e, come dire, e i poteri vecchi, ecco, quantomeno quei poteri vecchi si cercava di arginarli anche sotto la spinta di tutte le battaglie fatte negli anni 60 e 70. Oggi non c'è più neanche quello, quindi come dire, la spinta al centro della nostra politica come dire, è un po' diversa da quella. Lì magari, come dire, c'erano le bombe, oggi ci stanno bombe di altro tipo, ma ugualmente devastanti, però, come dire, su quel tipo di analisi non mi infilerei, perché la storia, insomma, si presta a diversi punti di vista, quello lo vedremo. Però per ora quello che ci tengo a dire è che ci sono migliaia di persone che aspettano di poter accedere a quella che è un proprio progetto di vita, e questo gli va riconosciuto assolutamente. Assolutamente sì. Senti, Porpora, per chiudere, diciamo, su altre questioni, ma insomma, per chi volesse avere voglia di fare due chiacchiere con te live, sarai ospite di nuovo della nostra città a breve? Sì, sicuramente sì, perché domani esce la ristampa di Antologaia, il mio libro che molto e tanto riguarda Roma e il mondo dei compagni, e con edizioni Allegre, e una ristampa riveduta, corretta, risistemata, reimpostata, che a mio avviso rappresenta un documento storico che non è solo un saggio, ma anche piacevole da leggere, da guardare proprio perché è la nostra storia. E faremo lo spettacolo, come già abbiamo fatto quest'estate alla SMIA per la festa della radio, lo faremo a Comunia per fare una sorta di prima romana con il dibattito, la presentazione del libro e spettacolo, ecco, quindi il 14 marzo. Benissimo, quindi ci segniamo questa data e ovviamente ti vogliamo live anche qui a quel punto, visto che sarai a poche centinaia di metri. Sicuramente. Va benissimo. Ok. Porpora, ti ringraziamo moltissimo, guarisci presto e